Sonaka, sonaka, sonaka, uccina ma c'è su sonna. Sonaka, sonaka, go sonaka, uccina ma c'è su sonna. Tracy! Zona, Zona, Zona, Zona, JC, Zona, Hallelujah.